Il barione sullo mondo tutto. Il barione sullo mondo tutto rappresento l'uomo. Per non morire io non copio, sono un creatore. Il barione sullo mondo tutto. Il barione sullo mondo tutto rappresento l'uomo. Per non morire io non copio, sono un creatore. Rappresento l'uomo. Per non morire io non copio, sono un creatore.